prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ho scritto in italiano, è stato Fai da Fai da. La genesi è stata, io scrivevo in un giornalino che si chiamava Skate, che parlava per l'appunto di cultura dello skateboard, e facevo delle recensioni di musica. Sentivo alla radio Luca De Gennaro, il DJ di Stereo Rai, grande appassionato e conoscitore di hip hop. Un giorno sono andato a Roma per intervistarlo, ho preso contatto, sono andato a Roma per intervistarlo. Mentre parlavo con lui, mi ha detto che dopo un paio di settimane ci sarebbe stato un grande evento vicino a Padova, in cui rapper italiani, writers italiani, breakers eccetera si sarebbero dati convegno per fare appunto questa grande festa. Io ci sono andato e mi sono trovato di fronte a degli artisti incredibili, lì ho avuto l'occasione di conoscere, poi persone sono diventate mie amiche, come per esempio Sergio Messina, e sulla strada del ritorno ho iniziato a scrivere Fai da Fai da, proprio per l'entusiasmo del minchia, non sono da solo, no, non esito soltanto io, fuori dai circuiti, diciamo, questi delle grandi città, che sì, per chi ha queste passioni, diciamo, di urbana, è più facile avere dei contatti con i tuoi simili in una grande città che in un paesino dell'Umbria, evidentemente. E da lì poi, insieme a due amici, abbiamo fatto una mini colletta tra di noi, abbiamo tirato fuori i soldi per poter registrare il pezzo, l'abbiamo presentato, e Luca De Gennaro lo ha presentato alla Irma Records di Bologna, che stava realizzando un disco in cui tutti gli artisti che avevano partecipato alla Cosa di Padova sarebbero apparsi, e ha detto no, è bella questa canzone, mi piace, mettiamola in quel disco. Ho detto ma io non mi sono esibito. Non importa, se l'avessi scritta l'avresti cantata di sicuro. E quello è stato il mio debutto, diciamo, nel mondo della musica. Padre contro figlio, fratello su fratello, partoriti in un avello come carne da macello. Uomini con anime, sottili come lamine, taglienti come il crimine, rabbioso oltre ogni limite. Eroi senza una terra che combattono una guerra tra la mafia e la camorra, Sodoma e Gomorra, Napoli e Palermo, succursali dell'inferno, divorate dall'interno. In eterno, da un tessuto tumorale di natura criminale, mentre il mondo sta a guardare muto senza intervenire, basta. Alla guerra fra famiglie fomentata dalle voglie di una moglie con le doglie, che oggi dà la vita ai figli e domani gliela toglierà, mi spogli dalle foglie che le taglia come paglia e nessuno se la piglia. È la vigilia di una rivoluzione alla voce del padrino, ma Don Vito Corleone oggi è molto più vicino, sta seduto in Parlamento. È il momento di sferrare un'offensiva terminale, decisiva, radicale, distruttiva, oggi uniti più di prima alle cosche, bosche, attitudini losche, mantenute dalle tasse, alimentate dalle tasche. Basta una busta nella tasca giusta, in quest'Italia così laida. You gotta fight your fighter. Andò così dunque. Era il 1992. Un ragazzo della provincia di Perugia, con l'accento casertano, pubblicava il suo primo singolo, votato come migliore canzone rap della storia della musica italiana dal mensile Rolling Stone. Fai da Fai da è una canzone che racconta un'intera generazione e un genere musicale in Italia, l'hip hop. Quella di Frankie Energy, però, è una storia diversa, forte, nuova e che innova, sperimenta, gioca con la geografia e la storia politica di questo paese. Nato a Torino, Francesco Di Gesù, meglio conosciuto come Frankie Energy, crescerà tra Caserta e Città di Castello, in provincia di Perugia. Il lavoro di mio padre, che lo ha portato in giro per l'Italia, e io e mia mamma al seguito, come si usa nelle famiglie italiane. E questo cambiare posti proprio durante la sua infanzia, la sua giovinezza, quanto ha inciso anche sulla sua formazione e anche sulle sue scelte poi successive? Ma immagino abbastanza il fatto di poter vivere periodi della mia vita così importanti di snodo, diciamo, per la crescita personale, in luoghi così differenti dal punto di vista culturale, sociale. Cioè, Caserta è diversa da Città di Castello per un sacco di versi, intendo, dalla lingua all'attitudine locale, al cibo tipico, al clima, a tante cose. E chiaramente questo aiuta a spostarsi, aiuta ad aprire gli orizzonti, a ampliare i propri orizzonti, guardare con occhi diversi. È una, così, se vogliamo, è stato un tour formativo, diciamo, la mia infanzia e la mia adolescenza, quel punto di vista. Perché lei ha proprio fatto anche le scuole, diciamo, cioè non era così piccolo da rimanere fuori dal circuito scolastico. No, quindi ho fatto le elementari, le medie, i primi 3 anni di liceo li ho fatti a Caserta, poi gli ultimi 2 anni di liceo e l'università li ho fatti in Umbria, quindi ho potuto verificare le cose, differenze. A Caserta ero in un liceo con 1800 persone, e dove saltuariamente circolavano anche armi da fuoco, diciamo, negli zaini. A San Sepolcro, vicino a Città di Castello, dove ho fatto gli ultimi 2 anni di liceo, eravamo in 300 e il preside chiamava per nome, dando del lei, tutti gli studenti. Quindi un salto incredibile, no, quasi diverse, ma non c'entra, lì non c'entra neanche, secondo me, la geografia, sono proprio dimensioni diverse che restituiscono la variegatezza dell'umanità, e aver la possibilità di assaggiare così tante pietanze permette di creare un gusto proprio molto più formato e cosciente, ecco, mettiamola così. Però non c'è anche qualcosa di ingiusto nel dover vivere, cioè nella fortuità, insomma, perché una persona che nasce a Caserta rispetto a una persona che nasce a Città di Castello, probabilmente, se non ha la possibilità di muoversi poi da Caserta, ha una percezione del mondo completamente diversa, no? Cioè, se il compagno di classe entra a scuola con la pistola. Sì, ma anche quello che vive a Città di Castello, se non si può muovere mai da Città di Castello, anche è più sfortunato di quello di Caserta, che è senz'altro più scafato per alcuni versi, proprio perché, siccome c'è il compagno di classe di Casal di Principe che si porta il ferro in classe, vive il mondo con un occhio diverso. È così come uno che abita alla periferia di Kathmandu rispetto a chi sta nel centro di Chicago. Sono dimensioni, sono diverse, sono limiti e trampolini dai quali lanciarsi. In quale periodo, insomma, ha cominciato a scrivere i suoi primi testi e perché? Cioè da cosa sono nati, da quale esigenza? No, sono nati, ho iniziato a scrivere quando mi sono trasferito da Caserta a Città di Castello, perché dopo essere stato 13 anni in un posto, aver avuto la mia formazione, i miei amici, tutto, e essere poi costretto a spostarmi, andare in un luogo in cui non conoscevo nessuno, così differente, mi sono aggrappato alle cose che avevo, alle passioni che avevo. E tra queste passioni c'era l'informatica e la musica, l'hip hop, questa cosa qui, questa cosa del rap, che fino a quel momento avevo così sbirciato dal buco della serratura e così mai, e non mi ero mai cimentato in maniera attiva nella creazione, nella composizione, eccetera, trovandomi improvvisamente da solo in cima ad un guscio di noce, ho detto: oh, proviamo, ma sì, prima in inglese. Ci fermiamo, diamo la linea alla viabilità e torniamo tra poco in compagnia di Frankie Energy. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta La prima volta. Questa è una storia raccontata con musica e parole, ma non troppe parole, come vedrete. Le parole non hanno tanta importanza, quello che conta è la musica. Frankie High Energy, il protagonista della puntata di oggi, con le parole gioca e denuncia. Denuncia l'omologazione e sprona alla presa di coscienza, al coraggio di pensare con la propria testa, anche quando questo significa fare fatica. Come fai a non combattere l'esigenza di micro-omologazione, esatto, che si vuole. Anche soltanto, cioè a me non me ne frega un cazzo del calcio, però in classe tutti quelli che mi stanno simpatici tifano Inter, mi metto a tifare Inter pure io, che mi costa, che me ne frega. Che musica ascolti? Non lo so, commerciale? Con queste cose, senza sapere, senza avere chiaro il proprio gusto, senza dire a me piace Miley Cyrus perché canta bene, ha uno stacco di cosce notevole, dice papà. No, questa cosa manca. Il problema è la scuola innanzitutto, anzi il problema siamo noi persone, noi utenti, noi genitori, noi altri, cioè io sono colpa in questa cosa, però il fatto che in un museo una persona che normalmente non è abituata ad andare nei musei davanti a un quadro si informa e chiede alla guida: ma è bello questo quadro qui? È bello? E nel momento in cui si sente dire sì, allora potrà raccontare di aver visto un quadro bello, come se non esistesse una scala parametrica per poter decidere questa cosa mi piace. Tranquilli, no? se guardi la Gioconda e dici ma a me non mi dice un cazzo, non commetti peccato, è giusto, è meraviglioso quello che dici, è meraviglioso se lo pensi tu. Se invece riferisci qualcosa ma senza farlo transitare dal cervello, allora è inutile, allora è accessorio. Quella di oggi è la prima volta di Frankie High Energy. Il suo rap di rottura e di denuncia si afferma sin da subito. Il successo del suo singolo di esordio, Fight the Faida, pezzo contro la mafia, la camorra e la corruzione, verrà diffuso anche nelle discoteche, ragione per cui Frankie verrà criticato da una certa sinistra. Erano avulsi da quell'apparato culturale. Esatto. Per come era strutturato, sì, in Italia all'epoca, oggi sarebbe molto diverso, è molto diverso per fortuna. E ragazzi, quando non ti conosce nessuno, fai la gavetta, arrivi con un pezzo che fa successo, è chiaro che ci sono persone che se ne hanno a male, un po' per gelosia, un po' per invidia, un po' per ignoranza, un po' perché magari ci avevano anche ragione, non lo so. E non è facile. Certo è che la prima volta che mi trovo davanti a un pubblico è stato per la notte dei marziani italiani, cioè la prima volta che ho cantato veramente in pubblico davanti a delle persone che non fossero il gruppetto di amici o il centinaio di ragazzi nella discoteca di San Sepolcro, no? E ci avevo davanti oltre 10.000 persone, è stata una bella botta, decisamente una bella botta. Da allora lo è sempre, ecco. Comunque è una bella esperienza quella di mettersi alla prova performando davanti a un pubblico. Ma io la responsabilità me la sento, certo, quando scrivo un pezzo mi sento la responsabilità di quello che sto dicendo, perché ho capito che ci sono molti che decretano la bontà delle tue affermazioni relativamente alla posizione che stai occupando. Sei famoso, sei X, allora prendo per buono quello che mi dici. Hai detto una cosa che una volta mi è piaciuta, allora tutto quello che dirai mi piacerà sempre. È un rischio, l'incapacità critica del pubblico è un rischio che deve essere calcolato. E si rischia di fargli fare delle sciocchezze, fargli dire delle sciocchezze, fargli pensare delle sciocchezze. E inoltre io sono profondamente convinto che, siccome il tempo è denaro, il tempo che il pubblico, che una persona sceglie di dedicarti anche soltanto nell'ascoltare una tua canzone alla radio, è un tempo che deve essere capitalizzato e bisogna far sì che questo investimento sia fruttifero per chi lo affronta. E quindi personalmente preferisco trattare temi che possano, che almeno che ho l'illusione possano essere considerati utili, Questo non significa che chi faccia puro intrattenimento faccia una cosa sbagliata, per l'amor del cielo, anzi, se lo sapessi fare lo farei, sapessi far ridere, no? Il disimpegno, il ragazzi, 5 minuti di vacanza dai pensieri, ok? Divertiamoci, yeah. Sono d'accordo, anche quello è un buon investimento. Non mi piacciono quelli che cavalcano l'onda dell'ignoranza altrui, capitalizzandola per sé, quello non mi piace. Cioè, se c'è un movimento becero, se c'è un se prendo 100 ragazze, le metto in monochini dentro una piscina piena di latte e ci faccio un video, sicuramente sarà un video che wow, avrà soprattutto da parte del pubblico maschile un enorme successo. Ma che schifo, ragazzi, no, non è giusto, perché comunque, come dire, lucri su un aspetto di ignoranza che è deleterio. E hai poi delle responsabilità anche successive, perché non è solo una questione di lucrare, è una questione anche di quello che poi tu costruisci nell'immaginario legittimi, dell'altro. Legittimi l'altrui ignoranza. Esatto. E l'ignoranza, purtroppo, viviamo in una nazione in cui non si considera un disvalore l'ignoranza. Quelli che truffano vengono visti come dei furbi, fino a che non truffano noi, a quel punto tornano ad essere i bastardi che dovrebbero essere per tutti. Volevo chiederti invece perché hai scelto di essere testimonial dell'Expo dei Popoli. Perché sì, perché Expo dei Popoli rappresenta, incarna e raccoglie tutte quelle realtà che mi aspettavo che fossero tenuto in grande considerazione da Expo 2015, una sorta di fiore all'occhiello, una nicchietta per i più deboli di cui vantarsi con il resto del mondo. Però questa cosa qui non è avvenuta con Expo 2015 e quindi evidentemente non aveva senso che io fossi un ambassador. Ambassador di cosa? Ambassador di grandi marchi del food and beverage e zero testimonianze di Via Campesigna e via discorrendo. No, non fa per me. Fortuna vuole che esiste Expo dei Popoli. Ma tu sarai a Milano il 3 giugno e poi nei giorni successivi, cioè lo vai a vedere oppure semplicemente ci hai messo la faccia, insomma gli stai dando visibilità? No, ci passerò, ci sarò, okay. Adesso, forse il 3 giugno. La prima volta termina qui. Ci trovate online, cercate La prima volta - Radio 24. Siamo su Facebook e potete riascoltare questa e altre puntate. Grazie, buona giornata da Cristina Carpinelli. Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo. Il fine è solo l'utile, il mezzo è impossibile. La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti. Sono replicanti, sono tutti identici, guarda lì, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere. Come lucertole s'arrampicano e se poi perdono la coda la ricomprano. Fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno. Spendono, spandono e sono quel che hanno. E sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Come le supposte abitano in blister full optional, con cani oltre i 120 decibel, se nani manco fosse Disneyland. Vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano. In costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo. Ma più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano,